Questa campagna è una delle campagne che l'UAR lancia ogni anno intorno a gennaio. Lavoriamo tutto l'anno sui nostri obiettivi politici e poi scegliamo uno dei temi su cui investire. Quest'anno, durante la pandemia, ci siamo resi conto che i problemi che emergevano sul campo scientifico sanitario erano tanti. L'anno scorso abbiamo fatto una donazione per la ricerca sul Covid, ma quest'anno, a seguito del 2020, abbiamo realizzato che i temi dei diritti civili sociali delle persone, delle minoranze, venivano meno durante questa quarantena, questa pandemia. E in particolare durante il 2020 è stata approvata definitivamente la RU 486, la diffusione anche in farmacia senza ospedalizzazione, e sono emersi subito dei problemi nella distribuzione di questo farmaco. E allora abbiamo deciso di lavorare insieme a una testimonial che ha vissuto questa esperienza, cioè di vedersi rifiutata la pillola, e abbiamo lavorato con lei per lanciare una campagna a livello nazionale per, come si dice in inglese, raise awareness, no? Per svegliare un po' le coscienze su questo tema, perché anche se nel frattempo gli ospedali sono pieni e quant'altro, l'aborto farmacologico è proprio una soluzione per evitare l'ospedalizzazione in un momento in cui gli ospedali sono potenzialmente ricchi di un virus che piega il nostro sistema. A proposito di questo, in diverse regioni abbiamo visto come invece spesso le giunte guidate dalla Lega cerchino di ostacolare la somministrazione, ad esempio in dei hospital o in consultori, dell'RU486 e richiedano sostanzialmente invece l'ospedalizzazione, quindi ostacoli a questa applicazione, che però si trovano anche sul nostro territorio. Ma appunto nel comunicato parlo del fatto che anche se a Bologna crediamo di essere forse un passo avanti, e lo siamo in realtà su tante cose, non ci dobbiamo dimenticare che le sacche di resistenza sono ovunque, non solo tra l'altro in città ma anche nel nostro hinterland. Proprio per questo la nostra campagna è anche su Casalecchio e su Imola. Imola ad esempio è un territorio che purtroppo è passato alla destra, e ad esempio lì sentiamo in consiglio comunale delle dichiarazioni che lasciano veramente perplessi. E lo stesso anche su Casalecchio, ci sono dei consiglieri leghisti, ma anche qui a Bologna, che su questi temi fanno ostruzione, ma non solo in consiglio comunale, perché quello che temiamo è che purtroppo queste espressioni reazionarie siano anche all'interno del sistema sanitario o di chi è preposto a distribuire questi farmaci. La vostra campagna prevede delle affissioni, appunto l'hai già detto, a Bologna, Casalecchio e Imola. Avete provato anche all'ospedale Maggiore, ma avete avuto dei problemi? Esattamente. Fare l'affissione davanti all'ospedale per noi era anche un obiettivo importante per parlare proprio a tutte le persone che si recano in ospedale magari cercando appunto soluzione al problema. E in realtà abbiamo avuto diversi problemi perché l'ospedale Maggiore non ha ancora affidato a nessuno la gestione di questi cartelloni, non sappiamo da quanto tempo inutilizzati. Non c'entra ovviamente un ostacolo alla campagna di per sé, però comunque abbiamo davanti a uno dei nostri ospedali principali qui in città dei cartelloni che potrebbero essere usati per fare della informazione scientifica, ad esempio, proprio come quella nostra, e invece non vengono utilizzati. La chiamo informazione scientifica, su questo voglio fare un punto, perché la nostra non è solo una campagna sulla RU 486, sulla quale tra l'altro c'è proprio tanta ignoranza, perché non è mai stata fatta una campagna pubblica, governativa su questo, ma è anche una campagna che vuole portare avanti la voce di alcune donne, come Alice Merlo, la nostra testimonial, che vuole parlare di come per lei l'aborto farmacologico è una conquista da difendere, ma è anche, non è stato un problema, non l'ha vissuta tragicamente. E purtroppo le associazioni che entrano nei consultori, negli ospedali, nel sistema sanitario, le associazioni antiabortiste, sono associazioni che invece continuano a premere sul fatto che l'aborto o l'aborto farmacologico sono tragici. Quindi anche questa retorica, questa narrativa della tragicità dell'aborto è qualcosa che noi vogliamo scardinare anche attraverso questa campagna. Tra l'altro proprio Alice sottolineava come il problema maggiore rimane la colpevolizzazione, insomma, delle donne. Sì, e infatti proprio per questo la campagna è partita adesso, all'indomani più o meno dell'8 marzo, perché diciamo la lotta per i diritti delle donne e delle minoranze in generale non si ferma l'8 marzo, ma continua.